24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 16 minuti e 40 secondi inizia la terza parte di 24 Mattino di questo martedì 12 maggio. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Ciao Maria. Buongiorno, buongiorno Simone. Viene, come dire, inevitabile fare il confronto su alcuni titoli dei quotidiani italiani che appunto mettono in evidenza l'attesa per il decreto rilancio e per le decisioni che devono essere prese, e i titoli di due differenti giornali che questa mattina vado a citarvi. Da un lato il Guardian, che dice: Johnson non ha offerto un piano chiaro per l'uscita dal lockdown. Ci sono molte critiche a Johnson per essere stato, come dicono gli inglesi, uno che vuole la torta e vuole anche mangiarsela, tutte e due le cose. Da noi si direbbe la moglie piena, la botte piena e la moglie ubriaca. Vuole la ripartenza dell'economia ma anche la salvaguardia non della era salute. La quindi, moglie piena e la botte ubriaca, ma ubriaca comunque, non era male. Non era male, prego. E questo è, la situazione confusa al momento in Gran Bretagna, mentre la cosa che colpisce in Francia, dove ieri si sono riaperti i negozi, i parrucchieri presi d'assalto, preso d'assalto a Parigi anche il Lungo Senna, dove all'ora dell'aperitivo si sono viste le stesse scene che si erano viste a Milano sui Navigli, sul lungomare di Parigi. Momento Navigli anche per uguale, Parigi. Identici. Non c'era polizia a controllare, ma proprio, cioè, ragazzi senza mascherina, nessuno con la mascherina, tutti appiccicati gli uni agli altri. Vedremo se oggi si ripeterà la cosa. Ma la cosa che mi ha colpito di più, a proposito di piani economici, è che il ministro dell'economia, Bruno Le Maire, ha annunciato che il piano di rilancio per l'economia francese verrà definito, sentite bene, tra agosto e settembre. Perché dice si tratta di un piano massiccio, importante, che non può essere deciso senza ascoltare molte parti sociali, consultarle. Ciascun euro, ha detto il ministro dell'economia francese, va ben dispensato. E quindi mentre da noi appunto si attende questo piano e ogni giorno si dice perché non arriva, perché non arriva, in Francia il piano complessivo, non i singoli finanziamenti che sono già stati approvati, ma il piano complessivo arriverà tra fine agosto e settembre, perché Bruno Le Maire vuole pensarci con meglio calma. Rifletterci un po' di più, dice, ed evitare, se vogliamo, interessante forse evitare anche questo delirio del quale parlavamo stamattina, questi 250 articoli, 438 pagine, questo assalto di alla decreto diligenza rilancio. Per cui tutti chiedono qualcosa, dimenticando appunto che questi saranno soldi che arrivano dall'Europa e che si devono spendere con saggezza, non facendoli arrivare a pioggia o peggio agli amici degli amici. Oh, questo, Maria, consentimi, perché ce lo scrive un ascoltatore: in Francia hanno preso soldi a fondo perduto il mese scorso. Questo è la sottolineatura di quello di cui discutevamo ieri con il vice ministro Misiani, e il motivo per il quale abbiamo insistito tanto sul tema della mancanza di soldi a fondo perduto nella prima fase dell'emergenza, perché i soldi a fondo perduto invece del passaggio attraverso le banche avrebbero probabilmente consentito una fase di sopravvivenza che avrebbe permesso di mettere a punto delle misure, insomma, un po' più complesse e meglio strutturate con meno rapidità. Però, insomma, tant'è, è in questa situazione siamo. Ci dice un altro ascoltatore, dice: ma come faranno a garantire la distanza i bar e i ristoranti in Francia con quei microscopici tavolini all'aperto? E infatti sono esercizi che non riapriranno probabilmente fino a fine mese, ma anche di più, e soprattutto i bistrot di Francia hanno chiesto al governo di attivare le misure come se si trattasse di un disastro, di un terremoto, di un'emergenza nazionale, perché è un vero problema per loro. 349-238 sì, beh, sì, ovviamente. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, anche audio, per le vostre voci, così come le vostre voci le vogliamo sentire all'800-24-00-24 sul tema ovviamente di Covid-19, della ripartenza, e anche sulla vicenda di Silvia Romano che affronteremo in questa prima parte della trasmissione. Con due aspetti diversi, da una parte la questione delle organizzazioni non governative e delle dimensioni per operare, del regime di sicurezza, e dall'altra parte il tema invece dei sequestri, di come funziona, di questi 4 milioni, lo sappiamo, non lo sappiamo, le fonti sono diverse, di riscatto pagati. Iniziamo con Gianfranco Cattai, che è presidente di FOCSIB, è la Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario, che raccoglie un'ottantina di ONG. Cattai, buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori. 87 organismi. 87 organismi, 87 organismi. Maria, prego, vai tu. Buongiorno Cattai. Buongiorno. Le voglio chiedere, abbiamo ascoltato le interviste che la titolare della piccola ONG alla quale si era affidata Silvia Romano ha dato, e le spiegazioni, dice Silvia non era sola, dovevano restare con lei due uomini, ma poi se ne sono andati. Insomma, l'impressione comunque è che ci fosse un certo grado di approssimazione. Le chiedo, ma prima di mandare una ventenne che non è mai stata in Africa, che non è mai stata in una situazione appunto come quella nella quale poi si è trovata, in un villaggio africano, chi deve valutare se ci sono le condizioni perché questo accada? E una qualsiasi piccola ONG può decidere di mandare chiunque da tutte le parti? Perché mi sembra che il punto sia proprio questo, e la famiglia di Silvia Romano purtroppo ha dovuto prenderne atto a cose già avvenute. Cioè, ci spiega quali dovrebbero essere le regole che accompagnano la sicurezza di un volontario che decide di mettere a disposizione la propria esperienza e la propria generosità in un villaggio africano? Io parlo con il beneficio di circa 27.000 volontari che sono partiti in questi 48 anni del sistema della federazione. E intanto bisogna dire che sulla sicurezza bisogna mettere le mani avanti, è difficile dire che c'è qualche luogo che è assolutamente sicuro. Ma certo, come prevenzione rispetto alla sicurezza ci sono delle norme che noi riteniamo fondamentali, soprattutto per chi parte ed è giovane. Non è mai lasciato solo, è accolto normalmente nei paesi dove va dai rappresentanti dei nostri organismi, e comunque sta almeno con una o più persone italiane. Questo ci pare una delle cose fondamentali, perché appunto ho raccontato che sicurezza non è mai assoluta, e soprattutto i giovani non devono mai essere lasciati solo, soprattutto i giovani e anche i volontari. Parlo anche del servizio civile, noi abbiamo 400 persone in questo momento che stanno partendo, che dovrebbero partire, perché non sappiamo che cosa capiterà da qui a settembre rispetto ai vari paesi in cui operiamo. Questa è la prima regola fondamentale. Noi abbiamo dei protocolli, delle procedure, eccetera, senz'altro, va tutto bene questo discorso anche delle norme, delle procedure, ma soprattutto che le persone siano insieme, si possano confrontare, non siano isolate. Da quello che ha visto Cattai, colgo l'occasione, solo molto rapidamente un piccolo inciso, consentimi anche Maria, visto che molti ascoltatori ci stanno scrivendo su questo, mettiamo insieme le due cose, la questione di Silvia Romano e la questione di Covid-19, molti ascoltatori ci segnalano, perché non è che vogliamo omettere le cose, ci segnalano che sotto casa di Silvia Romano, quando è tornata, c'è stato un assembramento di giornalisti completamente contrario a qualsiasi norma igienico-sanitaria che sia stata varata e approvata in quest'ultimo l'ultimo periodo, lo segnaliamo e lo diciamo affinché non si dica che l'abbiamo taciuto. Sì, effettivamente non era un bel vedere quell'assembramento. Dicevo, Cattani, sono tornati in redazione, si spera che, sì, che non si siano abbiano preso le misure di sicurezza per non, per diciamo, non creare ulteriori problemi. Sicuramente. Un piccolo inciso. Cattai, da quello che ha letto, da quello che ha visto, le sembra che siano state commesse delle imprudenze nel caso della Romano? Io non ho gli elementi esatti per valutare. Ho letto per esempio che erano partite in tre, dovevano tornare, lei è rimasta, eccetera. Non mi è dato di poter dare un giudizio. Certo, quella zona è una delle zone calde della realtà del Kenya, quindi effettivamente un po' di provvidenza ci voleva. Senta, in passato un'azienda i cui dipendenti furono purtroppo coinvolti in Libia in un sequestro e 4 tecnici furono coinvolti, ecco, questa azienda è stata condannata dalla magistratura perché non aveva adottato tutte le cautele necessarie. Sappiamo che c'è un'inchiesta per valutare se il rapimento di Silvia Romano abbia o no avuto delle negligenze da parte della ONLUS che l'aveva lì mandata. Le chiedo, non alla sua federazione, ma lei ha notizia di in passato altre ONLUS che sono state poi sottoposte a inchiesta perché non avevano rispettato le misure di sicurezza? Perché è tutta una questione di prevenzione, noi non saremmo qui a parlare, e con tutte le polemiche che si trascina il caso, non saremmo qui a parlare di un sequestro durato 18 mesi se certe misure di sicurezza fossero state rispettate. Probabilmente non mi pare che in passato ci sia mai stata una situazione di condanna da parte della magistratura. Certo, io posso raccontare anche esperienze personali molto difficili. Io racconto per esempio di una volontaria che stava in Burundi 20 anni fa, volontaria già con un passato, con una presenza in Burundi di almeno 30 anni, tutta una vita. Ad un certo punto c'era una situazione di tensione e abbiamo detto alla volontaria, l'associazione di cui fa parte ha detto alla volontaria, forse è il caso che rientri. Le sue parole sono state: ma vuoi che qualcuno faccia male ad una persona anziana come me, conosciuta da tutti? Alcuni due giorni dopo c'è stato un omicidio mentre pranzavano di due missionari e questa volontaria. Situazione difficilissima, no? da prevedere, condivisa con la famiglia di lei, condivisa con lei stessa innanzitutto, solo per dire che effettivamente ci sono delle situazioni che in cui viviamo che non sono semplicissime, ma che sono condivise profondamente anche da gente che ha esperienze a lungo nella realtà. Nel mondo delle organizzazioni non governative, Cattai, c'è anche una questione di preparazione, soprattutto per i più giovani, ossia, chiaro che immagino delle persone che vanno giù con tutto l'entusiasmo che può avere una ragazza di 22 anni, insomma, vengano preparate al lavoro che fanno là. Ma c'è anche, ed è abbastanza diffusa, anche la preparazione sulla sicurezza di quelle aree, delle aree nelle quali vanno? Assolutamente sì. Assolutamente sì, le potrei raccontare, soprattutto per i più giovani, le partenze in servizio civile. Abbiamo delle modalità che sistematicamente presentiamo, ripresentiamo, eccetera, ai nostri giovani. Abbiamo paese per paese piani di cosiddetta evacuazione, che dovrebbero essere piani di evacuazione conosciuti al Ministero degli Affari Esteri, all'ambasciata locale, eccetera, in cui i nostri organismi, qualora ci fosse qualche difficoltà, sono preparati. Solo per dire come c'è una letteratura, un'esperienza e un'organizzazione paese per paese. Dico paese per paese perché le realtà sono profondamente diverse, perché non si può confrontare il Burkina Faso con l'Ecuador. Ma non si può neanche essere generici ad un paese come il Burkina Faso, perché una cosa è il confine col Mali, un'altra cosa è il sud del Burkina, per cui bisogna essere conoscitori profondi per poter gestire delle procedure, delle norme di sicurezza e farlo presente ai nostri volontari. I nostri volontari, i nostri cooperanti, i nostri servizi civili che firmano questi documenti, cioè non è soltanto teoria, è anche pratica, ma non è burocrazia, è proprio approfondimento di possibili situazioni. Maria, hai altre domande? Per Katai. Solo una rapidissima, Gran Bretagna, Stati Uniti non pagano i riscatti, altri paesi europei come noi invece lo fanno. Brevemente, nella sua esperienza, qual è la motivazione che porta i paesi che non pagano il riscatto per i loro connazionali a scegliere questa strada? Fondamentalmente la motivazione è perché così i cosiddetti rapitori sono invogliati a non chiedere il riscatto. Sarà così? In realtà molti sono le persone, americani, inglesi, eccetera, che sono abbandonati e ci rimettono anche, pagano con la vita le scelte del proprio governo. Grazie Gianfranco Cattai per essere stato con noi. È presidente di FOCSIV, la Federazione degli Organismi Cristiani del Servizio Internazionale Volontario. Torniamo su questo tema, sul tema del riscatto, sul tema degli ostaggi e sul tema di come si gestisce una situazione di questo genere con un ex agente del SISMI, un ex rappresentante dei nostri servizi, dei servizi segreti militari, dopo la pausa. State ascoltando un programma offerto da Il Lavoro Cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Mattino. A parte il fatto che gli italiani, come al solito, sono, cioè, tutti allenatori, tutti esperti di politica e adesso tutti esperti di servizi segreti e di come ci si muove e di cosa si deve fare. Ma quelli che dicono è incosciente, dove andate in posti pericolosi? Ragazzi, ma lì ci andate tutti in vacanza, anche andate a fare i safari dove è andata lei. Non è che è andata a Mogadiscio, lei era in Kenya, a pochi chilometri dalle spiagge che frequentate tutti. Io mi converto a un'altra religione, che sono dell'Unione Musulmana, e vengo giù dall'aereo con la catena nel collo con il cristianesimo. Secondo me, lo sapete già, che fine faccio. Si è convertita, lo sanno già. Allora, perché quella scenata all'aeroporto, il vestito, avete fatto vincere questi integralisti due cose: la pubblicità e i soldi. Consentire che questa Silvia sbarcasse con questo bel telo verde, consentirgli di scendere dall'aereo con quel vestito lì, è stata veramente una cosa assurda, vergognosa, ripugnante. Portarli in Italia può anche essere giusto, ci mancherebbe, ma non consentirle di fare questo film con a fianco il nostro primo ministro, il ministro degli esteri. Capito i nostri ascoltatori, cara Maria, su posizioni diverse. Stamattina avevo fatto questa domanda, Maria. La domanda era questa: capisco che possiate avercela con la ONG, capisco che possiate avercela con lo Stato, con il governo che ha pagato, ma non si capisce perché si sia scatenato quest'odio nei confronti della persona. E questa è la cosa che mi manda ai matti, quest'odio che si è registrato in queste ore nei confronti di Silvia Romano persona. E si era scatenato anche nei confronti, lo ricorderai, delle due Simone. Ma certo. Qua un po' peggio. È un po' peggio. Posso dire che nei confronti di uomini che sono stati pure liberati in circostanze non diverse, magari si trattava di tecnici e non di volontari, la cosa passò un po' più sotto silenzio. Ma ricordo che per Baldoni, il giornalista che fu appunto oggetto di un altro sequestro, si scatenò la stessa reazione. Evidentemente è qualcosa che tocca emotivamente. Comunque, devo dire che Nessun paese, diciamo, di quelli vicini a noi ha dato grande risalto né nei telegiornali né nelle cronache dei quotidiani alla liberazione della nostra connazionale. Comunque questa questione che è donna, secondo me ha un impatto sicuramente. Umberto Saccone, amministratore di IFI Security al Sismi per 25 anni, autore del libro Protocollo S, sequestro di persona, edito da Aracne. Saccone, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni, eccoci. Buongiorno, buongiorno a lei. Maria, prego. Buongiorno, nella sua esperienza al Sismi lei ha collaborato e anche dopo, quando appunto ha agito da privato cittadino con altri incarichi in una grande società italiana, lei ha collaborato al rilascio di molti sequestrati. Il punto, poi c'è l'aspetto della conversione, ma ci arriviamo dopo. Il punto sul quale tanti nostri ascoltatori, ma in generale in Italia, si interrogano è: ma perché pagare? Alcuni paesi non lo fanno, lo dicevamo prima con Gianfranco Cattai, Gran Bretagna e Stati Uniti a volte lasciano che i loro connazionali siano appunto lasciati al loro destino. Questa non è la nostra scelta, non lo è mai stata. Possiamo cercare di far capire perché uno Stato ha anche il dovere, oltre che il diritto, di proteggere un suo cittadino? No, guardi, allora le rispondo. Diritto internazionale. L'articolo 2 della Convenzione di New York dice che per i reati di terrorismo, e quindi i reati di sequestro di persona con finalità di terrorismo, non bisogna pagare assolutissimamente nessun riscatto. I paesi anglosassoni, per esempio, nei sequestri non di terrorismo, ma i sequestri per estorsione, consentono ovviamente di pagare. Consentono per esempio di assicurare, cosa che in Italia è assolutissimamente vietato, e quindi ci sono due mondi che si comportano in maniera diversa. Anche in questo caso il reato è stato rubricato come reato per finalità di terrorismo e quindi di fatto il sequestro non doveva essere pagato. Non mi sembra che il governo abbia detto, al di là di della stampa, che sia stato pagato qualcosa, e quindi non entro nel merito non sapendo i fatti. Allora, Saccone, senta una cosa. Allora, lei un po' sta un po' smontando questa cosa, però la questione è circolata. È tradizione italiana pagare i riscatti oppure no? Questo ce lo può dire? Allora, guardi, le dico, ho vissuto alcuni casi. Per esempio, quando stavo in questa grande azienda al quale la dottoressa Latella faceva riferimento, abbiamo avuto 4 sequestrati in Nigeria, ebbene non è stato pagato nessun riscatto assolutissimamente, nonostante che la mia azienda e i servizi fossero coinvolti in prima persona in quel paese. Diciamo che valgono moltissimo le relazioni. Abbiamo parlato di turchi, di somali, del sequestro di Silvia Romano. Diciamo che lo sforzo dell'intelligence è quello di costruire la rete. Quindi in Nigeria, per esempio, in quel caso la rete ci consentì di convincere i sequestratori a rilasciare i nostri 4 colleghi che erano stati sequestrati. Mi permette solo una nota, Maria, poi ti lascio la parola. Saccone, a proposito del non sappiamo, prego, se è stato pagato o non è stato pagato. Teniamo presente che sono passate quante? 72 ore dalla liberazione di Silvia Romano, anche qualcosa di più, e sul riscatto non è ancora arrivata una smentita. Quindi io non so, per carità, poi arriva oggi, arriva questo pomeriggio, però sul riscatto al momento non c'è stata nessuna smentita. Maria, prego. Abbiamo letto, Saccone, di una collaborazione tra i nostri servizi di intelligence e quelli turchi, oltre che quelli somali. Ora, molti si chiedono se poi la Turchia ci chiederà una contropartita per averci aiutato a liberare Silvia Romano, per esempio una contropartita in Libia, dove Erdogan vuole sempre avere una presenza più, diciamo, sostanziosa. Potrebbe esserci uno scambio di questo tipo? Beh, io non, onestamente non esagererei. Allora, lo scambio reciproco tra i turchi e gli italiani già c'è ed è consolidato negli anni, non solo perché fanno parte della grande famiglia della NATO, ma proprio perché le relazioni tra i servizi si basano per l'appunto su questa collaborazione. Arriverà il giorno che i turchi avranno bisogno di noi. Qualche ascoltatore, sentiamo. Andrea dalla provincia di Varese, buongiorno Andrea. Rapido, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Io parto da, diciamo, l'assunto che sia stato pagato un riscatto e al di là del caso individuale di Silvio Romano, della persona, insomma, che la famiglia abbia tutto il diritto di fare il possibile per salvaguardare la vita della figlia, penso che uno Stato, come la convenzione che citava prima Saccone, non debba mai pagare un riscatto, anche perché a quel punto diventa una valutazione di una vita italiana che è migliore, vale di più di una vita di decine o centinaia di persone che possano essere sequestrate. E infine volevo solo aggiungere che sì, probabilmente le ONG potrebbero avere nel loro protocolli un meccanismo per il quale chi vada fuori dal paese di origine debba comunque aver affrontato almeno un'esperienza all'interno del proprio territorio, trattandosi comunque di volontariato, e quindi mitigare in parte il rischio. Grazie Andrea. Sentiamo anche Davide da Salerno. Davide, rapido, sì, anche buongiorno. Lei. Buongiorno. Sì, assolutamente. Allora, la riflessione era questa. Noi abbiamo in Italia una legge sui sequestri di persona che appunto arriva a congelare i beni nel caso in cui il sequestrato venga appunto preso da organizzazioni terroristiche o criminali, e quindi per impedire di fondamentalmente scendere a trattative e finanziare in maniera indiretta queste organizzazioni. Non sembra che quando c'è un sequestro all'estero, non lo sapremo mai se appunto il riscatto sarà pagato o meno, è qualcosa di assolutamente riservato, però non sembra che all'estero sia più facile appunto dare questi soldi, spostando poi il problema nello Stato estero, quindi in Italia, non tagliamo. Davide, è chiaro, il tema, okay, è la differenza di trattamento, sì, tra i due. Maria, prego. Io vorrei aggiungere, Saccone, il punto è anche che nella situazione di Silvia Romano si andava a trattare con un'organizzazione somala, che è dichiaratamente fuori dalla legge. Tutti i sequestratori lo sono, ma questi sono un elemento in più. Questi sono terroristi. Ora è complicato. Torno sul punto che dicevano i nostri ascoltatori, ma torno sul punto della prevenzione. Che cosa può fare uno Stato per far capire alle ONG che sono responsabili? Citavo prima il caso di un'azienda che è stata condannata giudiziariamente per non aver tutelato la salute, la sicurezza dei suoi tecnici, quattro dei quali furono sequestrati in Libia anni fa. Quindi il punto è la prevenzione. Che cosa si può far capire che prima di mandare della gente allo sbaraglio bisogna calcolare i danni, non solo che verranno a capo di quella persona, ma anche i danni che la comunità, la collettività sarà costretta a sostenere? Sì, allora, innanzitutto il legislatore ha fatto qualcosa, nel senso che la Commissione degli Interpelli ha paragonato le organizzazioni non governative a le linee datoriali. Cioè il direttore di una ONG è anche lui datore di lavoro e quindi si deve attenere alle previsioni del testo unico 81 e del testo unico sicurezza. Allora lo Stato fa prevenzione controllando preventivamente che tutti adottino le migliori pratiche proprio per garantire la sicurezza di queste persone. In Kenya, nel posto dove è stata Silvia Romano, è un posto decisamente critico. Ma lo è tutto il Kenya critico. Gli Shabab entrano nel territorio, fanno loro direttamente gli attentati, fanno loro direttamente i sequestri, e quindi Silvia doveva essere preventivamente tutelata da parte della ONG, perché lo Stato ovviamente non può essere dappertutto. Grazie a Umberto Saccone, amministratore di IFE Security al Sismi per 25 anni, autore del libro Protocollo S, sequestro di persona, edito da Aracne. A chiudere, cara Maria, andiamo su questo decreto rilancio che stamattina avremmo sperato di poter commentare, ma in realtà ancora non c'è. Marcello Messori, economista, insegna a Luis Guido Carli di Roma, è direttore della School of European Political Economy. Messori, buongiorno professore, eccoci. Buongiorno. Eccoci. Prego Maria, vai. Sì, senta professor Messori, ieri in una dichiarazione un po' provocatoria un ex leghista della prima ora ha detto ma io quasi quasi mi auguro, non quasi quasi, penso che sia giusto non soltanto prendere i soldi del MES e destinarli alla spesa sanitaria visto che sono soldi che arrivano senza condizioni, ma laddove ci fossero le condizioni ben vengano, perché c'è bisogno di rimettere ordine anche nella vita economica italiana. È un paradosso, a dirlo è stato appunto un vecchio leghista dei tempi di Bossi, Pagliarini. Ma lei non pensa che ci sia comunque un filone, non so se interno alla politica, ma magari un filone minoritario nella pubblica opinione, che pensa che a un certo punto forse una ripulitura delle tante cose sbagliate che sono state fatte in 30 anni potrebbe servire? E dunque non dico ben venga la troica, ma c'è un filone che dice beh, forse c'è bisogno che qualcuno metta ordine nel nostro paese. È un filone minoritario, ma secondo lei esiste? Questo paradosso secondo me coglie un punto effettivo, cioè che istituzioni europee hanno già messo a disposizione degli stati membri, quindi inclusa l'Italia, certo montare di risorse che forse non sono sufficienti a far fronte all'emergenza pandemica. Professore, mi scusi, professore. Bisognerebbe avere una strategia per spenderli. Abbiamo un problema tecnico. Professore, ha l'auricolare o il viva voce? Perché non la sentiamo molto bene. Vabbè, insomma, proviamo. Tenga più vicina la bocca al microfono del telefono, prego. Assolutamente, no. Dicevo, questo paradosso effettivamente coglie un punto rilevante, ossia le istituzioni europee hanno già messo a disposizione degli stati membri un certo ammontare di risorse che forse non sono ancora sufficienti a far fronte all'emergenza pandemica, ma che comunque costituiscono un contributo rilevante. Per intenderci, l'Italia ha accesso o avrà accesso entro giugno grosso modo a 110 miliardi di euro. Manca una strategia chiara e ben definita di come utilizzare queste risorse. Quindi, parlando di una situazione in cui qualcun altro potrebbe decidere per l'Italia come spendere queste risorse, si mette un po' il dito su una piaga, cioè che occorrerebbe una strategia più chiara. Strategia che adesso, professore, al momento, stando a quello che rileviamo, insomma, qualche bozza l'abbiamo, per così dire, nell'ambiente un po' largo, qualche bozza di questo decreto l'abbiamo ricevuta tutti. Strategia che non sembra che si veda da questo decreto rilancio, no? 438 pagine, 250 articoli, in sostanza una manovra nella quale ognuno ottiene la sua piccola parte. Purtroppo sembra essere così, nel senso che certamente c'è una necessità socialmente irrinunciabile di sostegno ai redditi familiari e quindi è necessario prevedere trasferimenti a favore delle famiglie, è necessario sostenere le imprese, non soltanto le piccole e piccolissime imprese, ma anche le medie imprese, le grandi imprese che dal blocco totale o parziale delle attività hanno subito uno shock rilevante, possono far fatica a ripartire, però ancora una volta questi flussi di spesa ingenti e necessarie dovrebbero essere incardinate in una strategia chiara, altrimenti c'è il rischio di alimentare posizioni di piccolo o grande rendita già presenti nel nostro paese che permarranno anche nella fase di ripresa. Io devo dire che sono preoccupato ovviamente per questa fase di lento riavvio. Ci sono i problemi sociali ed economici che abbiamo sottolineato, ma sono ancora più preoccupato per la fase di ripresa, quando si tratterà di tornare a competere sui mercati internazionali, si tratterà di riavviare uno sviluppo, speriamo, sostenibile, e quindi saranno necessari ingenti interventi sia pubblici che privati. Se noi non abbiamo una strategia di spesa e abbiamo affastellato miriade di interventi, rischiamo di arrivare a questo appuntamento in posizione di gravissimo svantaggio rispetto agli altri stati membri dell'area dell'euro e più in generale rispetto agli andamenti economici internazionali. Ecco, non sembra che questa, diciamo, questo senso di responsabilità accompagni le varie forze politiche, perché mi sembra che tutte si stiano comportando da un lato come se fossero di fronte appunto alla finanziaria, e c'è l'assalto alla diligenza. Nelle finanziarie passate fu sempre così, ma ora bisognerebbe capire che insomma il tema e il problema è un pochino più grave. Dall'altro però c'è anche la pressione, il fare presto. Citavo oggi le parole del ministro dell'economia Bruno Le Maire, che ha annunciato che il piano di rilancio per l'economia francese sarà comunicato, sarà completato tra agosto e settembre, perché, dice Bruno Le Maire, ogni singolo euro va dispensato con saggezza. Il punto è proprio questo, professore: come si fa da un lato a tenere conto delle urgenze, perché ci sono aziende che chiudono se no, e dall'altro però a fare in modo che i soldi non vadano a pioggia, sprecati o peggio dati agli amici degli amici? Un'ultima cosa, diciamo, il dibattito sulle aziende. Oggi il Fatto Quotidiano riferisce appunto di una previsione di 73 milioni che verrebbero dati a un'azienda che si occupa di trasporti marittimi, la quale ha già accumulato nei confronti dello Stato un debito notevole, 55 milioni di euro. Come si fa a selezionare quello che è urgente e importante da quello che invece è soltanto assalto alla diligenza, un pezzo di vecchie abitudini che appunto portano un partito a difendere i suoi finanziatori, i suoi voti, eccetera, eccetera, senza tenere conto della cornice collettiva? So che è una domanda piuttosto complessa, ma sono sicura che potremo trovare una risposta. No, ma sa, trovare una risposta attraverso una proposta e un ragionamento è piuttosto agevole. Naturalmente io mi rendo conto che lavorare in emergenza sotto pressione, assumendosi delle responsabilità e l'onere di decisioni, sia molto difficile. Però su un piano, come dire, di consiglio e di suggerimento, la situazione è abbastanza chiara. Noi stiamo vivendo una gravissima emergenza rispetto alla quale non si può essere troppo discriminanti, perché bisogna salvaguardare sia la vita quotidiana delle famiglie, sia la continuità dell'apparato produttivo. Bisogna però anche tenere conto del fatto che questa è una fase che dovrà preparare la ripresa, e quindi, come dire, la strategia essenziale sarebbe avere chiaro quali sono le linee di politica economica, di politica fiscale, di politica industriale per il dopo, per la ripresa, e cercare nei limiti del possibile di tarare gli interventi di oggi rispetto a quelle strategie. Quindi la posizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze francese mi sembra decodificabile proprio in questi termini. Non andrà sprecato un euro, perché ciò che spenderemo per l'emergenza oggi è in funzione di quello che vorremmo fare domani ecco, certamente. Il mio problema è che non è chiaro cosa si voglia fare domani. Questo è. Grazie al professor Marcello Messori della LUIS per essere stato con noi. Maria, domani alle 8:20. A domani, Simone. Ciao a tutti. Ciao a tutti, alle 6:30 di domani. Ciao.